sta bene. Svavola mo la valle, tutto il mondo va, callo con l'ore galle, te sentire grida. Iamo a trattenere nagri all'impero, sotto che l'ombra rendro io giardino, logo e amore cresce. Ci dirai un vento sopraffino, mandando qualche cosa, noi amo già comprare, una pasta, una gazzosa, amo già ristorare. Ma siamo arrivati a tempo, aio pallone, e ora che già se sale cori a giocare a pallone è bravo tu lo sa, ma muta Frosinone se fatto cuccerà. Di affai e amore ci stanno movimento che manca una città, stiamo in un nuovo momento così ti può gustare. Guarda la luna amore sta spuntane se ci incontresse su lì bella via. Separato se no patisce puro gelosia. La sera dopo cena ci si sta a sentire a cinema all'arena, ci va a divertire. Spopolamo la valle, tutto il monte va callo con. Sentir.